rettore dell'Università di Torino in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico, ha messo da par suo il dito sulla piaga. L'Italia, argomenta il Presidente della Camera, lo cito dal Corriere del 14, l'Italia è messa maluccio quanto al numero di laureati. In Giappone si addottorano il 26,3% degli studenti della stessa fascia d'età, negli Stati Uniti il 25,6%, il 25,4% in Canada, e da noi alla laurea più del 7,7% non ci arriva. Beh, bella scoperta, direte. Che la nostra università faccia un pochino schifo lo sapevamo già tutti, non avevamo bisogno dell'onorevole Violante per scoprire che citazioni in molte facoltà sono congestionate, concorsi sovrappollati e senza rapporto diretto tra docenti e studenti, chiusa la citazione. Ma lui, che nella politica italiana è un po' il primo della classe, sapete, no? Ha individuato la causa di questa deplorevole situazione e propone anche il rimedio. Il rimedio sicuro. Negli ultimi decenni, dice, si è consolidata la tendenza a concepire l'apertura indiscriminata dell'università come una forma di democratizzazione della cultura, e i tentativi di porre dei limiti all'ingresso sono stati interpretati come la volontà di condurre l'università a una dimensione elitaria del sapere. Basterà dunque ripristinare qualche robusto filtro, magari integrandolo con una seria attività di orientamento che renderebbe meno drammatica in molti casi la selezione nella fase d'accesso. È un bel ragionamento, sì, un bel ragionamento. Parte da un dato reale, perché è vero che in moltissime facoltà la maggioranza degli studenti è abbandonata a se stessa, come a dire che la capacità d'accoglienza è inadeguata, e giunge come una freccia alla soluzione più facile, quella di ridurre il numero degli studenti, senza porsi il problema che è quello della necessità di laureati di cui ha bisogno la società italiana, e vi posso assicurare, pur non avendo i dati sotto mano, che siamo un bel po' sotto, e senza neanche sfiorare il tema del diritto che chiunque dovrebbe avere ad accedere alle offerte di cultura. A Violante, si sa, i diritti hanno sempre interessato meno dei doveri, e quanto all'università, evidentemente è convinto che le strutture in sé vadano benissimo, peccato che gli utenti siano troppi. Che è un po' il modo di ragionare di chi crede che per risolvere il problema di un ponte pericolante basta vietare di passarci sopra, ma che volete, lui è fatto così. In fondo è la stessa logica con cui ha costruito le fortune della sua carriera, come magistrato prima e come leader politico e parlamentare del Partito dei Magistrati poi, sostenendo a spada tratta la necessità di assimilare al terrorismo tutte le attività di quanti manifestassero comunque una volontà d'opposizione radicale, di trattarli come criminali, senza concedere loro l'accesso appunto al dibattito politico lecito. Sono cose vecchie, ma forse varrebbe la pena di rifletterci sopra ogni tanto. Anche perché la libertà d'accesso all'università, a pensarci bene, è una delle pochissime conquiste strutturali a suo tempo strappate da quel movimento di contestazione che uomini come Violante hanno sempre considerato il loro nemico naturale. Tutto si tiene. Naturalmente lui oggi ricopre la terza carica istituzionale dello Stato, con le voci che non gli dispiacerebbe a tempo debito arrivare alla prima. Proporre delle misure di selezione in nome di un ideale elitario può rendere accetto a una parte, però bisogna pensare anche all'altra, che oltretutto è quella che lo ha eletto. E allora cosa ha fatto? Allora cosa fa? Raccomanda una seria ristrutturazione del settore? Si azzarda a ventilare la magica parola riforma? No, figuriamoci, è troppo impegnativo. E poi Berlinguer potrebbe offendersi. Per riaffermare la propria identità di uomo di sinistra basta capovolgere l'argomentazione. Citazione: le cifre ci dicono che proprio questo tipo di università, solo apparentemente di massa, produce risultati straordinariamente elitari. Come dire che la vera università di massa non è quella capace di funzionare come tale, ma è quella selettiva, anzi selezionata, che non è niente di più che un paradosso nella tradizione degli innumerevoli nemici del popolo che ci hanno spiegato che la vera libertà consisteva nell'obbedire a loro, che il vero modo di preparare la pace era quello di rafforzare l'esercito e via dicendo, ma quando non si sa cosa dire, un paradosso è sempre meglio di niente.